quindi intro. Madman. Ehi, il 3 alla produzione. E questo è per... Non si può dire, ma il 3 ha già capito, no? Bella, va, mandala, oh! Basta che non siate brutte, voglio solo avventure, le voglio tutte, te pure, voglio le tue premure. Disprezzate il mio hip hop, fate tanto le pure, poi mi fate un deep throat, non sai farlo neppure. Fanno prima le superbe, poco dopo le dure, sono prima troppo acerbe, dopo troppo mature. Fanno gli amanti candidi, ma sono amanti manti, di due sguardi languidi, sei cotto tipo verdure. Li ho fatto tutti quanti, dagli amanti a quello dolce, adesso che vado avanti con tanti calmanti in gocce. Parlo con chi mi pare di freni e di tette e bocce. Scopro che amare e prendere saponette alle docce. Quindi se mi trovi con una che ha la frangetta, che ancora non si accetta, e quindi pompa farcetta, sappi che la rapisco, me ne infischio dell'offerta. Spedisco a chi l'aspetta, sono una falangetta. Perché sono un depresso e non faccio sesso da secoli. Scrivo ste tre strofe che sentono in tre scrofe. Ed è per quello che mi stresso, poi detesto i convenevoli. Considerevoli, atti disonorevoli. Succhiano fuori tutto il tuo orgoglio, con la tua vita sotto controllo. Tu falle fuori sotto un convoglio, mangiano fuori, tu non provare, provare. Tu vorresti un fusto virile, comunque giusto e servile, che possa giusto servire da nuovo reddito mensile. Io da una settimana vivo senza mattine, ed esco in pigiama alle 2:30 se sto senza cartine. Ma guarda, una vita che sbanda sotto ogni standard, ho gli occhiali di un panda e voglio andare in Olanda, dove la merce è fresh, nessuno che la bagna, e dove ti basta il cash per tipe tipo Carfagna. I miei fra venuti su con Alberto Castagna, adesso scopano nei su in aperta campagna. Io più che una ventenne che rende finocchi illusi, scelgo una minorenne che lo prende ad occhi chiusi. Se va con quello dopo, poi mi appello ai morti, prendo pennarello e foto e ne cancello i volti. Minaccio e faccio stalking, dead women walking, gorking, rivoglio l'anello come Tolkien. Anche se in realtà per lei ti beccheresti una pallottola, per lei sei come un Linus e sanguini ti appallottola, come se fossi un Kleenex e non credo sia una frottola, che anche la prima zoccola mi è costata una costola. Succhiano fuori tutto il tuo orgoglio, con la tua vita sotto controllo. Tu falle fuori sotto un convoglio, mangiano fuori, tu non provare d'orgoglio. Succhiano fuori tutto il tuo orgoglio, con la tua vita sotto controllo. Tu falle fuori sotto un convoglio, mangiano fuori, tu non provare, provare.